Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Gli sportivi di tutto il mondo, di tutte le discipline, condividono un sogno, la gara più ambita, l'obiettivo più alto, l'Olimpiade. La fiamma olimpica è il simbolo di un'aspirazione incantata. La sola partecipazione a un'Olimpiade, il clima del villaggio, il sapore di una competizione che non può essere paragonata a nessun'altra, sono traguardi decisivi per qualsiasi atleta e sono spesso il coronamento di una carriera. La storia che vi raccontiamo oggi ha come sfondo proprio la fiamma olimpica. Una storia straordinaria di determinazione, passione, sacrificio, consapevolezza e amore. Una vicenda che percorrendo il mondo passa attraverso 8 Olimpiadi diverse. La prima è datata 1984. Siamo a Los Angeles. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Siamo negli ultimi scampoli della Guerra Fredda. 4 anni prima a Mosca gli Stati Uniti hanno disertato i giochi. Ora il boicottaggio avviene da parte di tutti gli atleti del blocco di Varsavia, Unione Sovietica quindi e paesi satelliti. I giochi di Mosca di 4 anni prima erano risultati pesantemente ridimensionati dalle assenze del mondo occidentale. Nel maggio dell'84, per una sorta di ripicca, l'Unione Sovietica annuncia la non partecipazione ai giochi. Ufficialmente non si parla di boicottaggio, presunte carenze per la sicurezza di atleti e dirigenti, previste manifestazioni anticomuniste. Alla richiesta sovietica di allinearsi alla non partecipazione aderiscono quasi tutti gli stati satellite, non la Romania di Ceausescu e la Jugoslavia di Tito. Alla cerimonia di apertura i rumeni sono tra i più applauditi. Quasi tutte le gare vengono condizionate da queste defezioni, alcune in modo particolare. Tra queste, certamente le gare di canoa, che vedono gli atleti della Germania dell'Est come i grandi dominatori. Per contrasto, però, le gare diventano in questo modo più spettacolari, più incerte. Anche atleti giovani possono dire la loro e cercare di ottenere un successo insperato. Nella canoa femminile, ad esempio, le atlete della Germania occidentale possono beneficiare di una grandissima occasione, l'assenza delle rivali della Germania dell'Est. Tra queste giovani atlete c'è alla sua prima Olimpiade anche una donna destinata ad avere un rapporto unico con i 5 cerchi. Si chiama Josefa Idem. Josefa Idem. Alla sua prima competizione olimpica, Josefa arriva a 20 anni. È nata infatti a Goch, in Germania, il 23 settembre 1964. In quell'Olimpiade del 1984, nella canoa, Josefa veste i colori della nazionale tedesca. Poi le gare internazionali mi facevano anche un po' paura, perché mi sembrava di affrontare delle atlete di un altro pianeta, no? E poi però c'era Los Angeles e siamo andati là e mi trovavo particolarmente bene con una compagna di squadra, eravamo in stanza insieme, mi faceva così tanto ridere, quindi mi ricordo che abbiamo fatto un sacco di risate in quel periodo e insieme a questa compagna amica siamo andati alla scoperta del villaggio olimpico satellite a Santa Barbara. Josefa vive la bellissima esperienza del villaggio olimpico con grande trasporto. Come accade a tanti atleti dell'Olimpiade Los Angelina, il clima informale, cosmopolita, multiculturale che si determina durante quei giochi consente un progressivo scioglimento delle tensioni che permette di ottenere risultati migliori. La Idem gareggia nella specialità K2. Lei e la compagna Barbara Schutpelz arrivano dritte in finale. Il caso fa sì che ci arrivino in condizioni particolari, senza affaticarsi troppo. Nel bacino olimpico, dalle 10 della mattina in poi, si alzano onde che impediscono gli allenamenti. Insieme al vento che arriva dal deserto, rendono impraticabile il bacino, per cui le atlete si allenano presto la mattina e il resto della giornata possono scaricare in un'atmosfera molto rilassata. E così, volendo o nolendo, ci siamo riposati tantissimo e abbiamo fatto scarico rispetto al carico di allenamento e finalmente eravamo anche fresche, stavamo bene e così, cioè, senza le rivali dell'Est, con una forma fisica tirata al massimo nel momento giusto, grazie al fatto che non potevamo allenarci, è stata veramente una trasferta che ricordo molto solare, ecco. E poi è saltato fuori questo bronzo, perché devo dire che in quella giornata andare in barca è stata proprio anche come una sinfonia, mi sono sentita benissimo, pronta per affrontare la gara, cioè in uno stato di grazia come poche volte un atleta si ritrova. Le due atlete tedesche ottengono la medaglia di bronzo nel K2. Poco prima, nel K1, Barbara Schutpels è raggiunta seconda, galvanizzando l'ambiente e infondendo grande fiducia anche in Josefa Idem. Per lei è il primo riconoscimento internazionale, la prima tappa importante di una carriera che era iniziata 8 anni prima quasi per caso. Ero talmente piccola che uno non ragiona molto, voglio fare questa cosa, voglio fare piuttosto quest'altra. Nel senso che avevo provato un po' di cose che erano alla mia portata, anche dal punto di vista logistico, dove abitavo da piccola c'era la ginnastica artistica, c'era il nuoto, allora né una cosa né l'altra facevano per me. Poi abbiamo cambiato casa, abbiamo cambiato quartiere, in quel quartiere facevano della promozione nelle scuole, per la canoa, tra l'altro neanche nella mia scuola, bensì nella scuola di mia sorella. E allora, siccome io andavo in una scuola in un altro quartiere, quindi non coltivavo contatti con i miei compagni di classe, cioè, coltivavo i contatti di mia sorella, che aveva quasi la mia età, un anno in più. E allora sono andata lì con mia sorella, abbiamo provato e sono sempre caduta in acqua, sempre, non c'era verso, però ci sono rimasta proprio per il gruppo di coetanei, facevamo le cose per gioco. Un gioco terribilmente faticoso, l'allenatore è anche un po' troppo severo. Il primo approccio con la canoa per Josefa Idem non è dei più facili. Come spesso accade però, il bello è stare nel gruppo, in mezzo agli amici, a prescindere dalla disciplina sportiva in sé. Per cui Josefa persevera. Col tempo riesce a rimanere seduta senza cadere e così facendo salta fuori il talento che non passa inosservato ai selezionatori delle nazionali giovanili tedesche. È il 1976, Josefa ha 11 anni. Josefa ci mette 3 anni per arrivare al primo titolo nazionale ottenuto nel 79 nella categoria ragazze e 8 per gareggiare nella prima Olimpiade con il piazzamento di Los Angeles. La medaglia olimpica ottenuta negli Stati Uniti potrebbe essere il grande trampolino di lancio per la Idem. Per esempio, ero molto contenta di questo bronzo, sebbene anche consapevole che è stato un risultato, è stato un po' un regalo, no? Perché non c'erano quelle tedesche, cioè, vuol dire, ci avrebbero battute, ecco. E allora lì sono stata anche un po' punta nel mio orgoglio, ho detto adesso voglio far vedere che ci so fare, che è davvero, anche quando ci sono quelle che contano. E sono maturata, nel senso che ho dato, ho cambiato proprio tutta la mia programmazione, sono entrata nel corpo di polizia e con questo pensavo di fare un progetto professionale per il futuro, perché deve sapere che a quei tempi non era come oggi, c'era assolutamente da viaggiare su due binari, uno che era la formazione professionale e l'altro era fare lo sport, no? E quindi mi sono programmata a questi due binari, cioè quello della formazione professionale, in modo da non trovarmi a mani vuote a termine carriera, e quello proprio della carriera sportiva, che volevo a questo punto sperimentare per vedere fino a che punto il mio talento e il mio impegno mi avrebbero potuto portare. Grande determinazione, estrema lucidità nella programmazione. Josefa Idem mette da subito in evidenza grandi capacità di gestione, oltre all'indubbio talento sportivo. Nel quadriennio che la separa dall'Olimpiade successiva, quella coreana di Seul, Josefa però ottiene grandissimi risultati in Germania, ma fallisce puntualmente gli appuntamenti internazionali, i più prestigiosi. C'è qualcosa che ancora non gira per il verso giusto. Quella consapevolezza di sé che trasforma i grandi talenti in fuoriclasse ancora non è maturata. Quando arrivava la gara io puntualmente salivo, cioè, mi poteva svegliare la notte, facevo 1,57, salvo poi fare 2,02 in gara. Uno degli esempi più clamorosi è datato 1987 a Duisburg. La Germania occidentale ospita i mondiali di canoa. Davanti al suo pubblico, Josefa è tra le favorite nella gara del K1 sui 500 metri. Josefa però si produce in una gara opaca e sottotono. A vincere è Birgit Fleischer-Schmidt, grande atleta della Germania orientale, tra le più grandi di questo sport. Lei idem è solo quinta, abbattuta per aver incassato una bruciante sconfitta davanti alla sua gente. Dopo le Olimpiadi dell'84, punta nell'orgoglio, ho fatto un progetto molto, molto ambizioso, molto determinato, a dimostrare che sono in grado di competere anche con le atlete che a quei tempi contavano. E, cioè, l'ho messo in atto puntigliosamente come me lo ero proposto, tant'è che dal punto di vista fisico io sono stata molto molto in forma in quei anni, solo che ancora non avevo la mentalità per andare e competere con self-confidence. La mancanza di questa quadratura, di questa solidità mentale, si fa sentire in maniera ancora più netta nel 1988. In quell'anno, il 17 settembre, si inaugurano i 24esimi giochi olimpici dell'era moderna. Nel K1 Josefa arriva in finale, sempre sulla distanza dei 500 metri. La gara però non va come avrebbe sperato. La idem si classifica ultima. È uno dei momenti più critici della sua carriera. Un passaggio cupo in cui non manca anche qualche pensiero al ritiro. In realtà per Josefa Idem il 1988 è un anno complesso sotto tanti punti di vista, un anno di svolta, destinato a cambiare per sempre le cose. A quell'Olimpiade coreana l'atleta tedesca arriva con una evidente crisi di motivazione, una crisi che affonda le sue radici in un incontro avvenuto l'anno prima a Praga nel 1987. Nella capitale dell'allora Cecoslovacchia, la nazionale tedesca di canottaggio va in ritiro. Qui Josefa incontra la persona destinata a cambiare per sempre la sua vita, sul piano personale e su quello professionale e sportivo. Il suo nome è Guglielmo Guerrini. Guglielmo Guerrini. Dunque, noi ci siamo incontrati in un centro polisportivo cecoslovacco a Nymburk, che è un paese circa 50 km da Praga. Questo centro qui è un centro in cui ci sono gli sport d'alto livello fondamentalmente, e c'era dalla pallavolo, mi ricordo, la lotta, il sollevamento pesi, e c'era anche la canoa, perché questo centro era vicino a un fiume. E in quel periodo lì in cui io sono andato a fare questo corso, che è il secondo livello internazionale di allenatori di pallavolo, c'era la nazionale tedesca dell'Ovest, perché in quel periodo lì era ancora divisa Ovest ed Est, c'era Josefa che si allenava con le sue amiche, l'allenatore, insomma, questo è. Per cui poi abbiamo avuto contatti legati, devo dire, anche a un nostro sponsor di adesso, che è stata la Nutella, perché insomma io dicevo che atleti di alto livello non possono mandare la Nutella, però insomma, che poi non è vero, era semplicemente una scusa per fare un aggancio, ecco. Guglielmo Guerrini, classe 1956, nel 1987 è un allenatore di pallavolo. È partito dal calcio, che ha praticato a lungo in giovane età. Appassionato della meccanica dei movimenti del corpo dell'uomo nello sport, Guerrini frequenta l'ISEFA Bologna e si diploma alla fine degli anni 70. Nel mio paese c'era un problema di droga pesante per i bambini, per i ragazzi. E io con un amico, insomma, il mio amico ha fondato una società di calcio maschile, io ho fondato una società di pallavolo femminile e io come allenatore sono nato fondamentalmente come allenatore di pallavolo. Io giocavo a calcio in porta, però il mio substrato importante come allenatore, la mia parte di avviamento all'interesse del movimento e dell'allenare è stato nella pallavolo. Io in questo centro, in un paese piccolissimo che si chiama Villanova di Bagnacavallo, abbiamo fondato una società e la tendenza è quello di trascinare i giovani, le giovani, le ragazze in questo sogno, era quella di andare in Serie A. Noi dal 76 all'82 siamo arrivati in Serie B, quindi in quegli anni fra l'altro c'era la B, la A2 e la A1, quindi a un passo dalla Serie A, anche se sarebbe stata la seconda divisione. Però la cosa importante non era tanto insomma, il fare i risultati, quando staccare più ragazzi che si potevano attraverso il sogno di una grande carriera sportiva, staccarli da quello che era il campetto in cui c'erano gli spacciatori di eroina. È un innamorato dello sport, Guglielmo Guerrini, uno sportivo che crede fermamente nel valore educativo e formativo dell'agonismo. Crede che lo sport possa aiutare i giovani e rendere il mondo migliore. La sua formazione è improntata a questo ideale, inseguendo il quale approda giovanissimo alla carriera di allenatore specializzato nella pallavolo. Sul finire degli anni Ottanta, l'obiettivo che sembra a portata di mano è quello di allenare in Serie A una squadra di pallavolo femminile. Il destino però spariglia le carte. Ed ero andato a Praga per fare un corso di livello internazionale di pallavolo ed acquisire i tesserini internazionali, non si sa mai, insomma, forse se allenavo la Serie A avrei potuto allenare anche la nazionale, questo qui era un po' l'idea, insomma, la tendenza. Poi a Praga ho conosciuto Josefa e questa è la seconda parte della mia vita. Una seconda parte di vita fatta di record e straordinari successi, tanto per Guglielmo Guerrini che per Josefa Idem. Destini incrociati. Seul 1988, 24esime Olimpiadi moderne. Nelle gare di canoa, una giovane atleta tedesca spera di ottenere la sua seconda medaglia olimpica dopo il bronzo di 4 anni prima a Los Angeles nel K2. Si chiama Josefa Idem. Il 1988 è stato un anno travagliato e di grandi cambiamenti per lei. Così Josefa arriva in finale nel K1, ma si classifica ultima. Un risultato deludente. I rigidi allenatori della squadra tedesca imputano l'insuccesso a presunte distrazioni extrasportive. Da poco tempo, infatti, Josefa si è fidanzata con Guglielmo Guerrini, allenatore di pallavolo, incontrato per caso durante un ritiro della sua nazionale. Ero molto sopportata dall'allenatore federale, che poi ha frainteso un po' le cose, pensando che la mia determinazione dovrebbe includere anche proprio l'esclusione della vita privata, dal momento in cui poi mi sono fidanzata col mio marito, lui ha detto, avrà pensato che adesso tutti gli sforzi sono stati resi in vano dal fatto che la mia testa era in altri contesti, che lo sport non mi interessava più. E come dice Napoleone, no? Succede sempre ciò che più temo, alla fine è successo quello che lui temeva, cioè che con le sue pressioni di di cambiare, no? di lasciare stare con questo uomo in Italia. E allora io mi sono andata di traverso tutti gli sforzi, proprio ho detto vabbè, io voglio arrivare al top, ma non a costo di diventare un automa, un robot. E allora mi è calata la motivazione, cioè, mi sono ammalata, è stata una stagione così da dimenticare, per usare poche parole. Quindi l'88 è stato un anno molto travagliato per mille punti di vista. Josef è già un atleta dal potenziale straordinario. Le mancano la serenità e la fiducia necessarie a mostrare al mondo la sua straordinaria forza. L'incontro con Guglielmo Guerrini cambia completamente la sua visione del mondo. La spinge verso una più piena realizzazione di sé, verso un più salubre rispetto della propria sensibilità e della propria personalità. Dapprima il cambiamento si manifesta sul piano personale, con una scelta radicale e netta. Noi avevamo piacere di stare assieme, per cui ci si vedeva, io andavo in Germania oppure riscappavo in Italia, cose di questo genere. Dopo le Olimpiadi di Seul dell'88, che non andò molto bene, anche se arrivò quinta in equipaggio, che si dice in K4, era un KH4, e ultima in finale però in singolo, e decidemmo assieme di provare a convivere, di venire a abitare in Italia. E la scelta dell'Italia era perché comunque io insegnavo a scuole, l'allenavo, insomma, per cui lei si sentiva un pochettino più libera, insomma. Abbiamo detto allora adesso ci mettiamo insieme, oppure diventa una storia a distanza destinata a sbriciolare col tempo, no? Allora ho preparato armi e bagagli, ho preso su, sono andata in Germania e li ho lasciati tutti un po' di stucco, i miei genitori, il mio natore, il mio datore di lavoro. E ho detto adesso vado in Italia, adesso non mi prevarico più, non mi privo più della mia vita privata, ecco. Sono venuta in Italia, cioè già non dovendo più, per il fatto di non dovermi più dividere tra le presenze al posto di lavoro e l'allenamento da fare, ero molto più riposata, di conseguenza più tranquilla e più motivata. E in più, cioè, ero innamorata, è stato il contesto giusto anche per poi tirar fuori un risultato preparato assieme a mio marito. È il 1989. Josef Idem si trasferisce in Italia al fianco di Guglielmo Guerrini. Abbandona la sua carriera professionale nel corpo di polizia della regione della Vestfalia e decide di realizzarsi completamente come donna e come atleta. Rinuncia alla rigida programmazione della federazione tedesca e decide di costruire in autonomia una programmazione più libera. Qui interviene la seconda grande svolta. Guglielmo diventa anche il suo allenatore. Io, il primo contributo che ho dato io, questo video lo dico sempre anche per ridere, insomma, è che io non ho fatto guasti, fondamentalmente, perché lei è un grande talento. Di grandi talenti però nello sport ce ne sono tantissimi. Il talento per esplodere deve incontrare le condizioni e i presupposti giusti, non soltanto sul piano professionale e sportivo, ma anche su quello umano. In altre parole, al grande talento di Josef Idem era mancata fino a quel momento la giusta carica di serenità, necessaria a sviluppare la fondamentale consapevolezza dei propri mezzi. Proprio su questo piano agisce come suo nuovo allenatore Guglielmo Guerrini. Se la possibilità di avere degli interessi esterni non è castrata da quello che è un'attività comunque sempre di grande fatica, e se all'interno della specifica disciplina c'è una possibilità di discussione, perché chi va in partenza non sono gli allenatori, non sono i dirigenti, non sono neanche i tifosi, ma è l'atleta stesso, e quindi come tale bisogna ascoltarlo tanto in quelle che sono le sue sensazioni iniziali. Se noi allenatori non ascoltiamo gli atleti, che sono loro che giocano e sono più bravi di noi, siamo troppo arroganti nel voler fargli fare cose senza considerare poi quelle che sono le loro percezioni, che sono quelle più importanti. Per entrambi il percorso intrapreso è completamente nuovo. Anche Guerrini, che proviene da uno sport decisamente diverso come la pallavolo, sperimenta e si adatta, costruendo sul campo, progressivamente, il suo metodo di lavoro. Un metodo che inizia presto a dare buoni frutti. Allora è successo che quando noi siamo partiti, che è stato nell'89, io non ero un canoista e con lei abbiamo iniziato un dibattito per farne un excursus culturale per tutti e due di quello che poteva essere un allenamento più mirato e più utile ai fini della possibilità che lei esprimesse il massimo, non del risultato assoluto della vittoria, ma andare in gara e dire: io in allenamento sono forte, quello che esprimo in allenamento lo esprimo anche in gara. Io perché ho cominciato a seguire Josefa? Perché mi sono accorto che lei era venuta quasi praticamente per smettere, per dire: bene, mi interessa di più questa storia d'amore, facciamo questa storia d'amore. Però io mi sono accorto che la mia compagna aveva dei rododendri perché erano legato alla sua carriera sportiva. E quando approfondimmo questa cosa qui, lei mi disse che ogni volta che andava in allenamento, lei era uno da poter vincere il mondiale, però non l'aveva mai espresso in gara. E questo è stato la mia curiosità, dire: bene, se tu hai un potenziale per vincere, dobbiamo fare in modo che tu lo esprimi in gara. È il 1990, Josefa Idem e Guglielmo Guerrini si sposano. La canoista può iniziare a competere per la nazionale azzurra. Si ritrova a gareggiare in un contesto completamente nuovo, positivo, stimolante, che finisce per rigenerarla completamente e per lasciare esplodere il suo enorme potenziale. Poznan è una delle città più belle della Polonia, situata sullo splendido fiume Warta. Sempre a Poznan, altre acque, quelle del lago artificiale Malta, ospitano nel 1990 i campionati del mondo di canoa. Per la prima volta Josefa si presenta al nastro di partenza con i colori della nazionale azzurra e Guglielmo Guerrini a bordo bacino come suo allenatore. Ovviamente sono anche una persona che è molto più motivata quando le scelte, cioè io sono molto più motivata quando le scelte partono da me, cioè, quindi lì è stata proprio una scelta, cioè, adesso vado in Italia, mi alleno assieme a mio marito e siccome è stata una scelta completamente controcorrente, doveva funzionare, dovevamo entrambi dimostrare che era la cosa giusta. Quindi più serena, più riposata, che non è una cosa di poco conto essere fisicamente più riposata, avendo tolto 6, 7, 8 ore di lavoro al giorno per poi affrontare altre 6 ore di allenamento. Ecco. Quindi in questo modo ci siamo buttati. In una gara bellissima, Josefa Idem strappa il primo successo internazionale della sua carriera e oro nel K1 sui 500 metri, argento sulla distanza dei 5 km. Sono le uniche due medaglie per l'Italia ed è l'inizio della grande svolta per Josefa Idem. Ondi sono anche diventata più consapevole come atleta, quindi dove in passato magari il mio allenatore mi diceva: la gara la fai partendo forte, aumentando dopo la partenza e tirando fuori il massimo sugli ultimi 150 metri, che per me era sempre una cosa piuttosto vaga, voglio dire che l'impegno massimo era ovvio che io lo mettessi, ma come poi distribuirlo e come impostare tutto mi era piuttosto, cioè, non mi era molto chiaro. E avendo fatto proprio tutto questo passaggio, questo percorso di costruzione assieme a mio marito, sono diventata anche un'atleta più consapevole, quindi ho imparato a conoscermi meglio, ho imparato a dare le informazioni che servono all'allenatore per programmare bene, ho imparato a centellinare gli sforzi, ho imparato a fare delle strategie di gara. Per Josefa Idem, il 1990 è solo il punto di partenza. Inizia una serie straordinaria di successi. Arrivano altri titoli mondiali, successi europei, i giochi del Mediterraneo. Arrivano la terza e la quarta partecipazione a un'Olimpiade a Barcellona nel 1992, ad Atlanta 4 anni dopo. Nelle gare a cinque cerchi però Josefa ottiene solo un bronzo, il secondo in 4 Olimpiadi. Il suo sogno olimpico tuttavia continua ed è destinato a trovare il coronamento a Sydney, in una delle gare più straordinarie della storia di questa specialità. Destini incrociati. Josefa Idem e Guglielmo Guerrini, coppia nella vita, sono un tandem vincente anche nella loro carriera sportiva. Josefa è una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano. Guerrini, oltre ad essere suo marito, è il suo allenatore. Sotto la sua guida, all'inizio degli anni 90, la canoista smette di essere una semplice promessa e diventa un atleta vincente. La gara della consacrazione assoluta però arriva solo nel 2000. Per la Idem è la quinta Olimpiade. La fiamma olimpica quell'anno arde a Sydney. Per la seconda volta nella storia, i giochi olimpici arrivano in Australia. Dopo Melbourne 56 è la volta di Sydney 2000. Uno storico abbraccio tra le due Coree che sfilano insieme segna la cerimonia di apertura. Le nazioni partecipanti sono 199 più Timor Est. Gli atleti sono 10.651, le gare 300, con gli ingressi del triathlon e del taekwondo. Arrivano anche il sollevamento pesi e il pentathlon al femminile. Sono innesti che permettono tra l'altro di vedere nuove nazioni sui podi olimpici. È il caso della Colombia, con la sollevatrice di pesi Maria Isabel Urrutia, primo oro per il suo paese, e del Vietnam, con l'argento nel taekwondo di Hieu Nguyen Tran. Le Olimpiadi di Sydney si aprono anche all'insegna della riconciliazione tra gli aborigeni australiani e i colonizzatori europei. La fiamma olimpica viene accesa da Cathy Freeman, grande quattrocentista, ma soprattutto aborigena australiana, il segno più tangibile della riconciliazione. La Freeman ricorda anche i 100 anni dalla prima partecipazione femminile ai giochi, datata 1900 a Parigi. Tutte le tedofore all'interno dello stadio di Sydney sono infatti donne. Insomma, ci sono tutte le premesse per un'Olimpiade straordinaria e con le atlete donne grandi protagoniste. Le gare di canoa sono tra le più travagliate dei giochi. Sul bacino olimpico di Penrith tira sempre un vento fortissimo che rende difficoltoso il normale svolgimento delle competizioni. Tra continui rinvii, la finale viene programmata per il giorno 1 ottobre, l'ultimo disponibile. Il giorno stesso ci sarà la cerimonia di chiusura dell'Olimpiade. I giochi hanno una regola molto ferrea. La fiamma olimpica rimane accesa 2 settimane. Tutte le competizioni devono avere luogo durante tale periodo, con la fiamma accesa. Quando essa si spegne, le gare non hanno più valore. A 36 anni, alla quinta Olimpiade, Josefa Idem è ormai un'atleta matura, pronta per l'assalto all'oro. La sua gara però rimane in forse fino all'ultimo, rendendo difficilissimo mantenere la concentrazione. Realmente una giornata in cui noi le gare dovevamo partire alle 9, Josefa aveva la partenza alle 9.50, poi c'è stato un nubifragio con vento, ma un vento a 100 km all'ora, insomma, una roba per cui hanno rilanciato i ritardi, insomma, e poi la gara si doveva fare perché una volta spento il fuoco di Olimpia non sono più gare olimpiche, per cui le gare di canoa sono state le ultime gare fatte dell'Olimpiade di Sydney, ma perché c'è stato questo vento pazzesco che impediva che impediva l'effettuazione delle gare. Sì, sono arrivata sul campo di regata la mattina e stavano volando via le tende, stavano volando via le barche da quanto era forte il vento. Cioè, per noi diventa quasi proibitivo. Noi con un vento così non ci alleniamo perché rischiamo di farci male, rischiamo di cadere in acqua. Cioè, l'ultimo giorno delle Olimpiadi, arrivi sul campo che in realtà la cosa così non la si può fare, quindi è stata una giornata di grandi tensioni, di timore che le gare fossero sospese e con questo fosse saltata proprio una gara olimpica per la quale tutti noi atleti ci eravamo preparati perché c'era realmente questo rischio. Cioè che non si Aver vinto disputasse una. proprio. C'era il rischio che non fossero disputate in quella giornata e farle il giorno dopo non sarebbe più stata gara olimpica, in quanto la fiamma olimpica sarebbe stata spenta e sarebbe stato un mondiale, ma non Olimpiade. La gara invece parte, in condizioni difficili, proibitive. Josefa si è messa in gioco 10 anni prima, ha rischiato, ha avuto il coraggio di azzerare tutto, di ripartire, di inseguire la pienezza di sé, senza sapere dove questo l'avrebbe portata. Il 1 ottobre del 2000 a Sydney, Josefa Idem capisce che quel traguardo, il traguardo dei 500 metri del K1, è il traguardo del lungo percorso che ha coraggiosamente intrapreso. Arriva Guglielmo e il primogenito, il piccolo Janek, la osservano e spingono idealmente la sua imbarcazione. Ecco dunque le finaliste con la Idem che ha il miglior tempo in batteria in questa specialità che ci fa sognare. Ci fa sognare per la medaglia d'oro, ma in queste condizioni certamente. L'azzurra non è certamente favorita, mentre siamo ai 250 metri dal traguardo, è in ottima posizione la nostra bagagliatrice che indubbiamente deve mettercela tutta con un sistema di voga del tutto personale. Ecco che l'azzurra sta lottando a pari punta con la Janic e la Brunet, ci sono solamente 6 decimi di distacco tra la fortissima canadese e l'azzurra sposata Guerrini, alle Josefa, è Josefa che sta piazzando l'attacco principale davanti alle tribune, insomma un attacco importante, guardiamo in acqua 4 la Guerrini che sta lottando con la Coban. In acqua 6 e la Brunet in acqua 5, Josefa che ha una punta di vantaggio, le spalle sono abbastanza ancora in linea, la spinta è buona, sembra accusare ancora la Brunet e la Idem con una punta di vantaggio, la sua punta è inesorabile, passa a fatturre e passa a vincere per la storia d'Italia di questo. Josefa vince una gara straordinaria, la gara della forza e della determinazione. E Josefa in questa situazione in cui tutte erano in grande condizione, ma tutte erano sollecitate da queste condizioni avverse nel tempo, Josefa è venuta fuori, l'ha vinto secondo me la gara del secolo ed è venuta fuori veramente l'atleta più matura complessivamente di quello. E questo qui ci ha dato grande, grande soddisfazione proprio perché in una giornata come quella venirne fuori in quel modo significa che il nostro gruppo era veramente forte, veramente maturo, veramente determinato in quello che è stato fatto. Però Josefa ha fatto 23 anni consecutivi di finali, dall'82 al 2005, tutti gli anni con due gravidanze in mezzo, 23 anni di finali consecutive in uno sport faticoso come la canoa. E vince lì è stata proprio una gioia all'ennesima potenza. Io sono un po' fatta così, ho raggiunto il risultato e la cosa diventa subito normale, io subito passo al quotidiano, non ne faccio molte storie, Non dico che è un atto d'ufficio, ma proprio va bene. Sono contenta, sono felice, ma dopo torno subito al quotidiano. Così non è stato per le Olimpiadi di Sydney. Sono stata lì in procinto di andare alla premiazione, ero là in fila con le altre atlete e ho richiamato me stessa, ho detto: ascolta, questo sono i giochi lì, che tu hai vinto, respira profondamente e goditi questo momento, perché io difficilmente faccio questo, proprio perché torno subito alla quotidianità, perché penso comunque che prepararsi con professionalità e penso comunque che mettere tutto l'impegno in ciò che uno ha scelto di fare sia una cosa dovuta. Cioè, per me non esiste non impegnarmi. Sicché con questo tolgo anche un po' di questa di speciale, dai momenti speciali. In quel momento ho detto: ascolta bambina, adesso vai a goderti questo risultato, non correre con la mente in questo momento, soffermati e goditi questo momento. Quindi dal punto di vista sportivo, dell'emozione sportiva mia, è stato il momento più bello, devo dire. Alla fine della gara, sul podio, le lacrime di gioia e un abbraccio con il marito allenatore e con il primo figlio, immortalato in una foto che resta l'immagine più significativa della storia azzurra a Sydney 2000, un'ideale copertina degli straordinari giochi australiani. Josefa Idem, tedesca di nascita, italiana nel cuore e nello spirito, regala la 13ª medaglia d'oro all'Italia. In quel momento Josefa ha 36 anni appena compiuti. Il trionfo di Sydney è il coronamento di una carriera straordinaria, un percorso eccezionale fatto di abnegazione, determinazione, sacrifici, ma anche grandissimo rispetto per se stessa e per la propria realizzazione personale. Josefa gareggerà e andrà a medaglia in altre due Olimpiadi, nel 2004 e nel 2008, stabilendo un record straordinario. Nel frattempo, però, diventa mamma per ben due volte, conciliando benissimo famiglia e carriera e mandando un messaggio chiaro e forte a tutte le donne: non abbandonate mai le vostre aspirazioni. Dopo la gara di Sydney, Josefa aveva detto: gli schizzi d'acqua in faccia mi toglievano il respiro. Prima che dessero il via, non volevo gareggiare. Per fortuna sua e nostra, così non è stato. Quel commovente abbraccio sul podio è lì, a ricordarcelo. Let me stay.